Salve cari amici di Radio Big World, sono Pietro Pancamo e stasera voglio presentarvi un'autrice lombarda, Paola Loreto, che ultimamente sta ottenendo grandi risultati con i suoi libri. Ma non poniamo tempo in mezzo e passiamo subito a conoscerla meglio. Di lei bisogna innanzitutto sapere che è amante della montagna e che insegna letteratura anglo-americana all'Università degli Studi di Milano. E proprio per i tipi di una casa editrice sita in questa città, ovvero la Crocetti, ha dato alle stampe due raccolte di liriche. L'Acero Rosso è la prima e risale al 2002, mentre la seconda, uscita nel 2007, si intitola La memoria del corpo. È invece nel 2009 che la Mondadori le ha pubblicato la plaquette Transiti nel prestigioso Almanacco dello Specchio. Non dobbiamo poi dimenticare come Paola Loreto, che fra l'altro è nella giuria del premio Subway, abbia curato il Lucania Poesia Festival nel 2005 e nel 2008. Ha seguito inoltre i seminari di scrittura creativa del premio Nobel per la letteratura Derek Walcott. Senza contare che, come studiosa, ha all'attivo una serie di saggi sull'opera di Emily Dickinson, di Robert Frost e dello stesso Walcott. È infine una valente traduttrice e collabora non solo col mensile Poesia, ma anche con numerose riviste di studi americani, sia italiane che straniere. Giornata. È stato come le altre volte. Ho bucato la nebbia su per il monte, dove gira la pelle in superficie, se sudi. Ho ascoltato il cuore palpitare sui sassi. Mi teneva compagnia, come al solito, i corvi. Volano neri e superiori, con rare grida improvvide. E molta stasi nel planare. La sete e la fame hanno nuove papille in alto. E poi c'è il tempo e la pazienza di calare, la danza delle anche che han mangiato il moto. E poi il riposo, il calore che emana la carne, asciutta e intenerita. Proprio così, cari amici, era lei, Paola Loreto, e ci leggeva dalla sua silloge L'Acero Rosso un componimento sulla montagna intitolato Far giornata. Lo ha interpretato bene, direi, con una voce espressiva e nitida, che certo non mancherà di rispondermi puntualmente nell'intervista che sta per seguire e che sono davvero lieto di mandare in onda per voi. Thank you. Quali sono stati i momenti chiave della sua carriera di poetessa? Dipende da cosa intende per carriera. Se intende la mia evoluzione come poeta oppure l'imporsi in una qualche misura dell'ascolto della mia poesia. Per esempio, per il risveglio pieno della mia vocazione poetica, chiamiamola così, del mio desiderio, della mia voglia, della mia compulsione a scrivere, è stato fondamentale un seminario con Luigi San Pietro alla Università Statale di Milano. Ed è stato lì che per la prima volta ho avuto esperienza di come leggere un testo poetico, come prenderlo, aprirlo, manipolarlo, smontarlo. Mi ricordo che ci faceva usare i colori perfino, questa forma ludica ma liberatoria di trattare il linguaggio, che ha, come dire, rafforzato le prime esperienze che stavo facendo, in realtà abbastanza tardi, di scrittura poetica, questo impulso che avevo. Altrimenti è stato importante l'incontro con Loio, forse a metà tra le due cose, nel senso che da un lato ha confermato in me questa tendenza a considerare la poesia come un linguaggio nel quale lo strato sonoro è fondamentale, la voce, e dall'altra è stato fondamentale anche per l'uscita del mio primo libro, perché è la persona che lo ha introdotto, ha scritto l'introduzione e mi ha anche presentato, tra l'altro, a Milano. E poi sicuramente l'incontro con Crocetti e quindi il primo libro appunto con lui. Come nascono le sue poesie? A partire da quali dinamiche interiori del suo animo? E che cos'è ad innescarle? Ah, da un'emozione, senza dubbio, che spesso è un eccesso di gioia o una sopraffazione dell'intensità di una percezione, ma può essere anche un'idea che mi emoziona, un'intuizione improvvisa, forte, che riguarda l'essenza umana, il mio stare nel mondo, e che può essere di nuovo confortante o disperante, infinitamente triste, ma sicuramente porta il marchio inconfondibile di una verità assoluta, certa, innegabile, e che quindi è quello che secondo me abbiamo a disposizione per procedere. Sarebbe giusto dire che nella sua poesia il ricordo diventa una sorta d'inno pacato che, talora soffondendolo di serena ironia, lei innalza alla vita e dal presente? Sì, è davvero appropriato. Questo rivivificare l'intensità del ricordo è spesso un secondo modo, a volte più intenso, autentico, completo, di vivere la vita. Forse perché nel ricordo scopriamo il senso del vissuto e lo assaporiamo interamente. Il suo rapporto così intenso con le montagne, le Alpi in particolare, da che deriva e che funzione ha nell'economia dei suoi versi, ma anche nella sua vita? Da cosa derivi non lo so. Come, io credo, non sappiamo l'origine o il motivo di tutte le forme di innamoramento profondo della nostra vita. Grazie al cielo. Sicuramente ispira i miei versi e alimenta l'energia della mia vita. E posso fare delle ipotesi sul perché. Per esempio, salire in montagna mi permette di fare un'esperienza del mio corpo che si riavvicina a quella originaria di un'unità del nostro essere, di un'armonia. Quando sali, per un tempo prolungato in montagna, e il corpo diventa una macchina oliata che funziona perfettamente, non lo senti più come una cosa separata che hai, ma ti senti istintivamente quel corpo. Hai una sensazione di leggerezza, di sollievo dalla fatica o di vittoria sulla fatica, come se diventassi un essere, una creatura nuova. E poi montagna, e vorrei far notare che si dice in montagna, dentro le montagne, e non sulla montagna o alla montagna, come per esempio quando diciamo al mare, perché c'è un'idea diversa della spazialità, che esprime una sensazione diversa di abitare uno spazio. In montagna, appunto, circondata dalle montagne, al cospetto delle montagne che si stagliano alte di fronte a te, mi sento la presenza di una forma di intelligenza e sento che le mie domande sul senso della mia esistenza, se non del mondo, trovano una qualche risposta o si placano. Oppure le emozioni si spalancano, come quella della gioia o della paura. La montagna e il salire o percorrerla spesso ti costringe, per le condizioni di durezza, di difficoltà, di pericolo che si possono incontrare, a fare i conti con il tuo io più riposto e i meccanismi delle tue scelte e del tuo comportamento. Perché ho voluto salire? Che cosa mi spinge? Di cosa ho paura e come reagisco quando ho paura? Perché vado avanti? Come vado avanti? Con quali risorse? Per quale obiettivo? Ed è importante raggiungerlo? O forse non è più importante il percorso che sto facendo, che sto compiendo per raggiungerlo? Quali i principali insegnamenti che lei ha tratto dai seminari del poeta Derek Walcott? Direi in primo luogo il coraggio di cantare, il luogo per il quale sviluppi, per qualche motivo, abbiamo visto, un senso di appartenenza, anche se può sembrare umile o fuori moda, perché non c'è altro che tu possa conoscere così intimamente e amare al punto da farlo diventare una metafora del senso della tua vita. E poi a scrivere un verso più lungo che possa accogliere la narratività se lo desidero, che possa creare lo spazio per raccontare una storia e anche che possa accogliere questo senso di una lingua che si sviluppa, no? Che diventa colloquiale o rilassata, come diceva lui. E poi l'importanza del suono nel verso, della sua forma sonora, ritmica, che anche lui antepone al contenuto, per esempio quando si tratta di tradurre. Ci ha sempre detto: se siete incerti tra una parola che rispetta di più il suono, il ritmo, e una che è più fedele al significato, sceglietela prima. E poi l'estrema serietà del mestiere di versificatore o scrittore di versi, come lui dice di chiamarsi, perché poeta gli sembra un po' presuntuoso, e cioè la dedizione totale a una vocazione, a una chiamata. Che cosa la affascina maggiormente, sia nella lingua che nell'opera di Emily Dickinson e Robert Frost, due autori che lei ha analizzato così a fondo? In quella di Emily, l'impertinente libertà con cui storceva lo strumento che aveva ricevuto dalla tradizione, il linguaggio poetico, pur facendo finta di aderirvi, per esempio al metro e alla rima, come forma di amore per la propria eredità. E mi piace la sua capacità di creare un'area di ambiguità molto densa nel suo modo di significare. In quella di Frost è l'abilità di creare un verso che ha una base blandamente metrica, per lui era il pentametro giambico non rimato, e che varia all'infinito grazie alla sovrapposizione di profili intonativi, quei profili intonativi, quelle intonazioni prese dal parlato, dalla lingua che sentiva attorno a lui, che amava moltissimo, con cui diceva che per lui nasceva una poesia. E quindi i ritmi più liberi del parlato, con le sue enfasi dettate dalle intenzioni emotive del parlante, con una cesura molto più mobile, con una naturalezza molto più evidente, molto più forte. Mi piace il gioco sottile di tensione che creava tra la formalità del verso e la melodia della voce. Essere autori diversi aiuta anche a tradurre meglio le poesie altrui? E come? Sì, assolutamente. Il testo tradotto deve essere in primo luogo un testo poetico nella lingua di arrivo, e quindi per noi in italiano. E se non hai idea di come è costruire un testo, di come arrivare a essere soddisfatto della sua coerenza estetica formale, di congedarne uno che abbia una forma organica, anche per esempio dal punto di vista del ritmo, non puoi dar luogo a una poesia viva, che esiste, che dà la sensazione di un oggetto autonomo dell'arte. Secondo lei, verso quali forme e destini si sta evolvendo la poesia italiana attuale? E che cosa la differenzia maggiormente da quella americana di oggi? È una domanda troppo grossa per permettere sintesi efficaci. Il panorama è molto vario e ricco, e poi bisogna tenere conto della poesia consacrata dalle grandi case editrici o di quella pubblicata tout court, o addirittura pubblicata in rete, cioè di tutti quei poeti che stanno scrivendo oggi in Italia. Mi sembra che non sia riducibile sotto una sola etichetta o riassumibile in una direzione sola. C'è una tendenza che io vedo a fare una poesia prosastica e dimessa, e ce n'è una per esempio fra della poesia ancora orfica, o che comunque sposta l'asse di discriminazione dallo scopo comunicativo nell'utilizzo del linguaggio a quello espressivo. E c'è una poesia che vuole ancora definirsi civile, è una poesia più privata invece. A me sembra che la vera differenza sia sempre, perlomeno è quella che interessa a me, tra una poesia buona e una cattiva. E però qui inizierebbe un discorso molto lungo e impegnativo su come definire i criteri sulla base dei quali determinare un giudizio di valore. Rispetto all'americana, mi sembra, se si tengono in considerazione tutti i poeti che stanno scrivendo, e non solo i più noti da noi, mi sembra che sia perfino più varia. Più vario lo scenario, perché negli Stati Uniti c'è una tendenza maggiore ad affiliarsi alle cosiddette scuole, le schools, che sono proprio dei movimenti, delle tendenze, a creare un'opinione e un dibattito condivisi dalla comunità, dei poeti e a sfornare quindi dei modelli di moda, per esempio nelle scuole di scrittura creativa, ce ne sono di clara fama, alle quali chi scrive guarda comunque. Se non addirittura le frequenta o ne viene sfornato. Lei, che nel corso della sua carriera ha pubblicato anche in internet, che cosa pensa dell'editoria elettronica? Avrà un futuro? Riuscirà a rivaleggiare con quella tradizionale? Ah, l'editoria elettronica a me pare che abbia già un futuro e stia già rivaleggiando con quella tradizionale. Quello che mi auspico invece è che in futuro le due possano collaborare. Per esempio, sta succedendo in università adesso che si fanno contratti grazie ai quali si riescono a continuare a pubblicare o riprendere a pubblicare dei libri online a costi molto più ridotti rispetto al formato cartaceo o ai vecchi contratti per un formato cartaceo e che includono la pubblicazione di un certo numero di copie cartacee. Dall'altro lato spero e credo che l'editoria elettronica non possa mai sostituire completamente quella cartacea, perché un libro non è sostituibile con un display, mai, anche se il display può stare in una tavoletta ultraleggera e veloce, perlomeno non per me, per motivi che vanno dal piacere di manipolare l'oggetto libro ai danni alla vista che mi procura leggere per ore su uno schermo. Bene, fra opinioni, ricordi, spiegazioni rapide e incisive che hanno messo a confronto la poesia nostrana con quella d'oltreoceano, l'intervista che si è appena conclusa ci dà ragione di Paola Loreto come pensatrice, come critico, forse anche come docente. Insomma, abbiamo dinanzi un ritratto grossomodo completo della sua mente. Ma che ne è del suo stile? La sola poesia, che pur volentieri abbiamo ascoltato all'inizio della puntata, sicuramente non basta ad illustrarcelo. Ed ecco allora che a rimediare interviene Paola Loreto per recitare altre due notevoli poesie, entrambe molto suggestive e toccanti. sui propri passi. Sono tornata a far giornata su per i sassi che portano al Brunone. Sono sola un'altra volta, ma col cuore che pesa e non vuole reggermi così in alto. Ho paura. Paura del freddo e della luce. Paura che la gioia sia troppa e immeritata. Eppure incontro chi, come me, non parla e sale e si sdraia al sole di fine ottobre. Siamo insieme, in questo nostro amore irrimediabile per le cose e sacrificio senza motivo che le cose vogliono per essere, per avanzare, per prodursi un'altra volta e essere nostre in un istante solo che paghi il tempo speso nell'attesa. Mi fermo ogni due passi per lasciare il passo al respiro. Non voglio sapere se ce la farò. Per ora vado. Come posso vado e guardo al monte che ho mancato di raggiungere la scorsa estate e che un arco di bianco oltrepassa adesso in una linea per sempre incompiuta che mi guida nel blu perfetto e senza macchia come la neve, la morte che ci chiama, la vita che ci aspetta quando osiamo passare al di là di questo ponte di tronchi spaziati per bene sull'acqua. Lembo di lago. Vedi come incontra l'acqua la roccia, che le si getta dentro, come se ci fosse sempre stata, come se fosse sua e lei viva. E non si chiede cosa viene domani, se tira il vento e increspa la superficie e sciaborda scaglie a riva, o se tutto resterà perfettamente fermo, liquido e silenzio assoluto. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.